America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, pervasa da questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mario Platero. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Donald Trump, lo avete sentito, bombastico. Beh, ci aspettavamo un discorso, come dire, bombastico, ma qua è andato direttamente al punto. Dice: distruggeremo completamente la Corea del Nord. Rocket Man, l'uomo dei missili, Rocket Man è il nomignolo che ha affibbiato, devo dire, ne ha scelti tantissimi di nomignoli, in genere sempre molto azzeccati, lo ricorderete, durante la campagna elettorale. In questo Donald Trump è un maestro. Ecco, a questo punto Kim Jong-un è diventato il Rocket Man, l'uomo dei missili. Rocket Man naturalmente anche un personaggio dei fumetti. Si è imbarcato, dice, in una missione suicida per sé e per il suo paese. Donald Trump ha ricordato che gli Stati Uniti sono forti ma sono anche pazienti, che potrebbe essere possibile cercare una soluzione diplomatica, che però se a un certo punto anche gli alleati saranno minacciati, beh, gli Stati Uniti schiereranno al loro fianco e saranno costretti a difendere loro stessi e appunto gli alleati. Insomma, parole di fuoco con un attacco alla Cina. Dice: una vergogna, dice Trump, che ci sono dei paesi che non solo fanno ancora affari con Pyongyang ma che appoggiano e finanziano un paese che mette tutti in pericolo. E a quel punto l'appello all'ONU, qui la soluzione diplomatica, dobbiamo fare di più per isolare Pyongyang, dice Trump. Poi, come ci si aspettava, ha attaccato altri paesi, sono stati tre i paesi nel mirino, appunto la Corea del Nord per le note vicende, ma poi anche l'Iran e il Venezuela. Sull'Iran, beh, devo dire, Trump addirittura ha minacciato di stralciare l'accordo firmato da Obama, l'accordo sul nucleare, perché ha detto che l'Iran alla fine questa sua bomba atomica la vuole costruire lo stesso, il pericolo c'è, il pericolo non è stato cancellato dagli accordi che sono stati firmati dalla comunità internazionale. E qual è il rischio, dice Trump? Il rischio che l'Iran potrebbe dominare il pianeta con questi suoi missili balistici intercontinentali di cui già dispone. Dopodiché il Venezuela. Sentiamo direttamente da Trump il suo pensiero su questo paese sudamericano. We call for the full restoration of democracy and political freedoms in Venezuela. Wherever true socialism or communism has been adopted, it has delivered anguish and devastation and failure. Ecco, Trump dice: la dittatura socialista di Nicolás Maduro ha causato dolore e sofferenza al suo popolo. Il suo regime è corrotto, ha distrutto una nazione prospera imponendo un'ideologia fallimentare che ha prodotto miseria ovunque sia stata sperimentata. Ecco, è abbastanza inusuale che un presidente americano usi dei toni così forti, così diretti, direi in qualche modo semplici nei confronti di un altro paese. C'è sempre un po' una retorica diplomatica in cui messaggi magari fortissimi, però vengono celati dietro un linguaggio più morbido. Ma al di là delle dichiarazioni bellicose contro questo o quel paese, beh, direi che Trump si è imbarcato anche su un qualche cosa di più teorico, sulla rivendicazione del concetto di sovranità. E qui, come dire, ha cercato un percorso, secondo me, di delicato equilibrismo fra la giusta aspirazione alla sovranità di tutti i popoli e di tutte le nazioni, naturalmente, e il nazionalismo. Sappiamo tutti che sovranità non vuol dire nazionalismo. E Trump ha cercato di cavalcare questa legittima aspirazione di tutti per parlare di uno Stato forte. Le Nazioni Unite, per esempio, ha detto, possono funzionare se ci sono stati forti, non stati deboli, stati che esercitano il loro diritto alla sovranità. Ma questo nessuno lo impedisce a nessuno, nessuno ha mai detto che gli stati non debbono aspirare ed esercitare la loro sovranità. E qui poi c'è un passaggio in questo suo discorso che ha potuto generare qualche confusione, perché in nome della sovranità Trump dice che difenderà con tutte le sue energie l'America. Ecco, in qualche modo ieri all'ONU Trump ha voluto dare un contesto filosofico, teorico, ha voluto spiegare al mondo che cosa intenda davvero con il suo motto America First. Chi ha risposto per primo a Trump? Emmanuel Macron, il presidente francese, ha ripreso alcuni punti del discorso di Trump, per esempio ha detto non guerra con la Corea ma diplomazia, ma soprattutto si è soffermato proprio su questo concetto della sovranità, dando quell'interpretazione che può essere facilmente portata al nazionalismo e respingendolo. Su questo è intervenuto anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il presidente degli Stati Uniti mette l'accento, e non da ora, sugli interessi del proprio paese. Io penso che anche l'Italia non deve avere alcuna timidezza nel dire che la nostra politica estera si occupa anche dei nostri interessi nazionali. Forse noi sottolineiamo di più la necessità di una regia multilaterale. Ecco, però è stato più tardi, nella serata di ieri, alla Casa Italiana Zirelli Marimò della New York University, che il Presidente del Consiglio ha dato un contesto molto più ampio, con una critica dello sfruttamento retorico della nostalgia. Ecco, ha molto elaborato su questo termine, anzi ve lo vorrei far sentire in diretta, però Gentiloni parlava nel suo impeccabile inglese. In sostanza, Gentiloni dice: non cavalchiamo questa nostalgia, America great again, riportiamo l'America ad essere grande, perché questa nostalgia si riferisce a qualche cosa che in realtà è un'illusione, in qualche cosa che non è mai davvero capitato nella storia, no? Si stava meglio quando si stava peggio? No, si sta meglio oggi alla fine, se andiamo a fare un bilancio di dove siamo, meglio oggi. Ci sono 3,6 miliardi di persone, ha ricordato il Presidente del Consiglio, che sono ormai parte della classe media, e dunque su questo, dice Gentiloni, dobbiamo concentrarci. È giusto, è lecito essere nostalgici magari di posti che hanno rappresentato qualche cosa per la nostra storia, ma pensare che come eravamo magari era molto meglio di come siamo oggi, beh, questo è un altro discorso. Ha poi lanciato una sfida quando qualcuno gli ha chiesto che cosa vuol fare per l'Italia. Il suo obiettivo, dice, è di riconciliare la libertà economica con una società in inclusivo, una sfida difficile, però questa è una sfida che lui e il suo governo vogliono portare avanti. Infine c'è stata una domanda dello studente, dice: ma perché noi che abbiamo lasciato l'Italia per venire qui dovremmo tornare? Gentiloni ha chiuso con una battuta: perché si vive meglio e si vive più a lungo. E questo non lo dico io, dice, lo dice una statistica e una ricerca pubblicata da Bloomberg. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Cerchiamo di celebrare quello che è il valore essenziale delle Nazioni Unite, il valore dell'unità sovranazionale. Ecco, il Presidente del Consiglio ha parlato di sovranità, ma ha parlato anche di super sovranità. Ecco, noi non dobbiamo buttarci nella super sovranità, dobbiamo pensare all'idea di paesi forti che si raccolgono insieme per magari mettere da parte, per isolare personaggi come il dittatore nordcoreano. E dunque l'unità, anzi il multilateralismo per l'unità, deve prevalere. E dunque degli U2, degli U2, One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going!